快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如 快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带。 每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice。 作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。乐团演出。 Oh, man. Thank you. La principessa suspegna di cannone. Circolo! Corro eccellenza! Come,

Altra volta quell'uomo vedesti sì, il suo nome. Non lamento. Piccino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Non trovo. Cerca. E sono più in lieta di un giraio forse un giorno di volare loro sulla soglia loco con colonna Ivano ecco le sue finestre tutto il buio come la sera guardi l'ombre che si inseguono dall'una all'altra stanza lo cercano prendetelo l'ombre si sono riunite Signora, la rivedo. Dove? Morto. Morto. Fuggito. Che impeti le audace e le vita pronte a volarsi facile a tradir e come adonna ed ecco l'ideale terribile sospetto Ebbene, sì, lo uccisi. dite. Stasera un sospetto giunto appena di Russia gli recava una lettera del fratel Valeriano. Del fratello anche lui? Valeriano! Null'altro? Nulla. Oh, la prova suprema! La confessione sua! Confessa il suo delitto! Confessa! Finalmente! E poscia? Fate il vostro mestiere! Non un prete! Non un sepolto! Abbiamo un bavaglio! Alla foce della Senna vi attende la nave di Sabella e quello suolo rosso! Obbedirò, signora, o vivo o morto! Questa per l'ambasciata sia spedita all'istante a Pietroburgo! Forse al generale Yarishkin. D'ogni cosa lo informo. Sarà fatto, eccellenza. Silenzio! È lui! È lui! Andate! Mando un biglietto a ricordo di Dio. io salgo e io uscito, il servo mi lascia un istante, io porro il tiretto e bravo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Vedi io piango pianto mio della Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Un

Lui, o quale infatti

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. Leggi!